mangra, vigela lisi marite su sirene, sakova tie bialo tolite, vigela lisi marite su sirene, sakova tie bialo tolite. Paz.